A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Tarantini, vabbè, è conosciuto come una persona scorretta, frequentava un giro di donne belle. È tutto un bordello, là c'è stato tutto un gioco, sempre per guadagnare di più. Secondo me a una festa uno può invitare chi vuole. Qui siamo nel centro commerciale, in una delle strade principali di Bari, pare che sia uno degli argomenti di cui più si conversa. Chiaramente più se ne sa e più se ne vuole sapere, logico. Molta curiosità e anche stupore. Tramite la sanità pugliese è arrivata a Berlusconi. Ci possono essere tutte le donne per bene di Bari che, affascinate dall'andare alla festa di Berlusconi, sono disposte a tutte. Il discorso è il nostro portafoglio, quella è la cosa che interessa i baresi. Quando alle luci delle insegne si sommano i flash dei fotografi, qui in via Sparano a Bari le vecchie storie di protesi sanitarie si mescolano con i racconti dei lustrini ormai appannati delle feste che furono, proprio come i debiti lasciati qua e là da Giampi sono l'altra faccia dei diamanti luccicanti, un tempo indossati da Nicla. Giampi e Nicla, ovvero Giampaolo Tarantini e la moglie, già arrestati per la presunta estorsione al Premier. Tra i ristoranti alla Page o i frequentatori di locali glamour, qui non si parla d'altro, soprattutto ora che anche la Procura di Bari ha chiuso dopo 3 anni la sua inchiesta, con 100.000 intercettazioni e un'accusa sullo sfondo. Tarantini reclutava, selezionava e pagava le donne per Silvio Berlusconi, suo tramite verso rapporti di tipo affaristico, scrivono i PM pugliesi. Dai guadagni con le protesi, questo rampante barese puntava a commesse con molti zeri, con Finmeccanica e Protezione Civile. Donne dunque in cambio di favori. E forse questa la forma nuova di corruzione? Partiamo da qui dunque, dalle luci ormai spente dei lampadari di casa Tarantini, per un'immersione nella corruzione italiana. Da una corruzione di tipo sistemico si passava a forme plurime di corruzione di tipo individuale. Adesso è più difficile trovare proprio la classica bustarella o la classica valigetta, quanto altre forme più sofisticate sotto forma di consulenze, sotto forma di assunzioni di favore. In questo campo io vedo con molta apprensione il fenomeno delle società pubbliche o semipubbliche. Indubbiamente sono un modello che può presentare molto facilmente degli aspetti che si prestano a queste forme di corruzione. Da procuratore generale della Corte dei Conti, Furio Pasqualucci definì la corruzione la tassa occulta degli italiani e la stimò in 60 miliardi di lire. Ora che è in pensione, legge del caso dell'onorevole Marco Milanese, come dell'inchiesta su Filippo Penati e anche di quella di Tarantini, e avverte: queste sono nuove forme di corruzione attraverso nomine nelle società e sono pericolose. La corruzione ha preso man mano delle forme diverse. Fino ai tempi di Mani Pulite c'era una forma di corruzione che si esprimeva per lo più esclusivamente attraverso tangenti. Dopo avevo avuto l'impressione che la corruzione, pur tuttavia esistente, fosse cambiata. Non era più indirizzata a sovvenzionare i partiti, ma i benefici andavano direttamente a vantaggio delle persone corrotte. Quindi da una corruzione di tipo sistemico si passava a forme plurime di corruzione di tipo individuale, per quanto riguarda le assunzioni, per quanto riguarda l'assegnazione di prebende, consulenze, eccetera. Che dice delle notizie che proprio su questo aspetto, diciamo, sembrano venire fuori da un'altra inchiesta, quella per intenderci che ha coinvolto l'ex braccio destro del ministro Tremonti, l'onorevole Milanese, dove vengono contestate proprio nomine in importanti società, nomine in cambio di regali, soldi, favori, appalti. Non voglio anticipare giudizi nel merito, però il modello mi sembra che è quello che le dicevo, cioè si è passati dalla semplice dazione a fenomeni più complessi che però nascondono sempre interessi che non sono coincidenti con quelli della pubblica amministrazione e quindi sono forme in un modo o nell'altro di corruzione. Finmeccanica, ma anche la Protezione Civile, nell'inchiesta sull'onorevole Milanese, per cui l'aula dovrà decidere sull'arresto, come nella grande rete di contatti del Giampi barese, sono questi i nomi principali delle società più ricorrenti. Evoluzione di una nuova corruzione che è però da anni in aumento e in tutto il paese, come denuncia la Corte dei Conti. Una patologia tutta italiana che si estende come un tumore. senza trovare fino ad ora adeguati antidoti legislativi. La corruzione, denuncia la Corte dei Conti, nell'ultimo anno è esplosa del 30% e in assenza di veri argini la malapianta potrebbe dilagare ancora. Sono i numeri dei giudici contabili a lanciare l'ennesimo SOS. 237 i casi contati dalle forze dell'ordine, 708 le persone denunciate, con in testa Campania, Puglia ed ex aequo Lazio e Lombardia. E concussione e appropriazione indebita rappresentano rispettivamente anche il 17 e il 21% delle nuove citazioni emesse dai giudici contabili, per danni stimati in 225 milioni nel primo caso e in quasi 5 nel secondo. Le nomine partitiche, la gestione delle partecipate, come l'enorme landa della spesa sanitaria, terra sempre più di malaffare, alcuni dei settori su cui i giudici sollecitano più attenzione. E d'altra parte, non appaiono indirizzati a una vera e propria lotta alla corruzione, denunciano i magistrati contabili, il disegno di legge sulle intercettazioni, né la norma che ne ha dimezzato i tempi di prescrizione, la cosiddetta Cirielli. Così come giace fermo al Senato il disegno di legge anticorruzione, su cui pur la Corte dei Conti non nasconde perplessità, ma sono ancora di più i dubbi che solleva sul federalismo fiscale. Il decentramento della spesa pubblica, leggiamo nell'ultima relazione, può contribuire a ridurre la corruzione? O piuttosto ad aumentarla, quando la vicinanza a interessi e lobbies locali, si chiede la Corte, favorisce uno scambio di favori illeciti? È proprio il trampolino di lancio di Tarantini, con gli affari sulle protesi e i contatti con politici locali di entrambi gli schieramenti. Ma dalle Alpi alla Sicilia, il campionario delle inchieste sulla corruzione nostrana è ampio e variegato e non trascura nemmeno le toghe. Così l'ex procuratore capo di Pinerolo, in Piemonte, ha patteggiato la pena per corruzione in atti giudiziari dopo che si era scoperto che dava a parenti e amici incarichi come consulenti liquidati dal Ministero della Giustizia con 15 milioni di euro dal 97 al 2005. Incarichi inutili sono contestati in Molise come nel Bergamasco, mentre in Puglia tra l'87 e il 2001 all'Agenzia della Dogana di Taranto i rottami, che pagano un dazio del 6%, venivano trasformati in materiale senza tassa, elencano i giudici contabili, senza dimenticare utilità e favori che questo cambiamento portava ai direttori e ai loro congiunti. E in Campania, mentre le domus pompeiane soffrono per incuria e scarsi interventi, la regione viene condannata a risarcire 1 milione e 800 mila euro per inutili spese per la costituzione dell'agenzia di marketing per lo sviluppo regionale. Irragionevole e ingiustificato fu poi giudicato in Sicilia il potenziamento del 118, con danno di 37 milioni. E si arriva fino al caso della Calabria, dove funzionari dell'amministrazione finanziaria sono stati condannati per aver affittato a prezzo maggiorato i locali, sentite un po', alla direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria. E io pago! E io pago, commentava Totò, perché poi la corruzione, che la Corte dei Conti calcolò in 60 miliardi di lire, si traduce in una tassa tanto concreta quanto occulta per tutti noi, per i cittadini, come spiega ancora il procuratore Pasqualucci. La pagano nel senso di minori servizi. Se le risorse che la pubblica amministrazione deve destinare a questo vengono ridotte perché una parte viene distolta da queste finalità, è così che i cittadini si trovano a pagare, quantomeno in termini di minori servizi, oppure, se vogliamo, sotto un altro profilo, in termini di maggiori tasse. Eppure è stata introdotta anche una legge che sancisce come si fa per i beni sottratti ai mafiosi anche l'utilizzo delle ricchezze confiscate ai corrotti. Una legge che di fatto non è stata mai applicata. Infatti a me non risultano ipotesi di applicazione di questa legge. No? Ma è in vigore. Anzi, ho visto di recente che ci sono state quasi delle levate di scudi contro l'Agenzia delle Entrate, non parliamo poi delle quote latte, tanto vero che ho sentito di una circolare del Ministero dell'Economia in cui si evitava all'Agenzia delle Entrate ad evitare certe forme che sembrano eccessivamente prevaricatrici. A ciascuno il suo. È vissuta molto male questa curiosa viraggio della reputazione della città, che da essere considerata da sempre una città molto vivace, molto attiva, improvvisamente si trova invece in questa posizione un po' imbarazzante di essere identificata come luogo degli scandali. Siamo qui nel centro praticamente di Bari. Secondo lei il timore in questo momento di Bari è di essere marchiata appunto come una novella Sodoma? Il problema di Bari è che deve in qualche maniera sostenere la propria reputazione. Dalle finestre aperte di Casa La Terza entra il suono e il fermento di una città in pieno divenire e si scontra con le pareti foderate di libri di uno dei rappresentanti della storica famiglia dell'editoria barese. Tutt'altro emisfero dunque rispetto alla villa Scarface, come era ribattezzata dei coniugi Tarantini, dove i libri, racconta chi c'è stato, mancavano del tutto. Ma la storia del produttore di protesi arrivato vicino al Presidente del Consiglio attraverso feste e donne ora è un problema serio di tutta la città, commenta Alessandro La Terza. Adesso lo sforzo deve essere quello di chiarire le cose e poi chiarire quello che noi siamo, e non siamo certo Tarantini e tutta la corte celeste che si è mossa per Palazzo Grazioni, questo è poco ma sicuro. C'è chi vede in questo forme nuove di corruzione. Ma queste sono oggettivamente forme nuove di corruzione. Ormai l'unica dimensione in cui la politica si esprime in maniera significativa è quella dell'intermediazione di risorse. Siamo qui nel centro, nel cuore proprio di Bari. Lei teme che questo affarismo che questa inchiesta sembra raccontare possa essere prevalso sul concetto della reputazione? Qualcuno potrebbe sentirsi, come purtroppo da molti anni sta accadendo in Italia, giustificato in comportamenti magari meno gravi, perché tutto sommato se ci sono determinati esempi uno potrebbe dire: ma in fondo che cos'è la mia piccola infrazione? L'origine di tutti i mali, infatti, sta lì. Quando cade il limite del rispetto della legge, avvertono anche i magistrati, che sia corruzione o evasione è quasi uguale. E non è forse un caso che oggi, a 19 anni, dalle monetine di Tangentopoli, anche se sotto un'altra veste, l'una aumenti l'altra. Perché nella lotta alla corruzione, denuncia la Corte dei Conti, è stato fatto poco o nulla. Il disegno di legge giace al Senato, mentre nessuna applicazione c'è mai stata per la norma che autorizza la confisca dei beni ai condannati per corruzione. E poca fiducia ripone l'ex procuratore Furio Pasqualucci anche sulla stretta per l'evasione dell'attuale manovra. Queste varie deroghe alla normativa si tengono a braccetto e si incitano e si eccitano a vicenda. Noi come Corte dei Conti abbiamo individuato uno strumento che in parte ci consente di recuperare gli effetti perversi della corruzione. Abbiamo individuato, poi le dico perché continua a usare l'imperfetto, cosiddetto danno all'immagine. Coloro che si macchiano del reato di corruzione costituiscono un danno per l'immagine della pubblica amministrazione. Perché usa l'imperfetto? Perché questo strumento del danno all'immagine ha subito una forte limitazione con un decreto legge poi convertito in legge. In questi anni, di fatto, quanto è stato fatto? Meno che niente. A me pare che tutte le misure che sono state prese sono intese a limitare la funzione della pena, renderla meno praticabile. E ripeto, lo stesso si è verificato per la Corte dei Conti, che bene o male svolgeva anche una funzione di supplenza, perché quando un reato è prescritto possiamo lo stesso chiedere quantomeno il risarcimento del danno. Sono stati messi dei paletti, dei limiti alla nostra azione, si è detto che non potevamo agire in ogni caso ma solo sulla base di notizie di reato precise e concrete. Contemporaneamente il disegno di legge anticorruzione giace ancora fermo al Senato. C'era stato un impegno notevole della magistratura contabile, tanto che il greco è un'istituzione dell'ONU, sottolineato questo forte ruolo di supplenza che faceva la Corte dei Conti in campo penale. Lei che cosa pensa di questa stretta sull'evasione che arriva a prevedere anche il carcere? Non ci facciamo illusioni, le riscossioni sono nell'ambito che le dicevo di quel 10% dell'accertato, non sono molto fiducioso, le dico la verità. Comunque speriamo bene. Fatto sta che adesso si stanno reintroducendo delle misure che già c'erano, che poi sono state levate. Sulla corruzione l'Italia deve ancora ratificare anche una convenzione europea e presto anche al nostro paese. Bruxelles invierà una comunicazione per sollecitare la risoluzione di un altro problema nella lotta alla corruzione, la prescrizione troppo breve. Un tema questo che all'Europa sta molto a cuore, visto anche l'alto numero di frodi ai finanziamenti comunitari che tuttora si registrano da noi. E la frode spesso è associata alla corruzione, come ben sa Giovanni Kessler, magistrato strato italiano all'Olaf, organismo antifrode dell'Unione Europea. Siamo nella fascia alta in termini di casi, di numeri, frodi su finanziamenti, su fondi europei, ma anche che l'Italia è tra i paesi che più reagisce a questo. Quest'anno, in un caso di un'indagine di Milano, ha per la prima volta la Corte dei Conti italiana ha sequestrato in via preventiva beni per circa 50 milioni a coloro che sono stati rinviati a giudizio per il reato di frode comunitaria, in modo da garantire che se poi queste persone verranno ritenute colpevoli, il patrimonio nel frattempo illecitamente ottenuto non scompaia. Frode è congiunto in Italia quasi tutt'uno con corruzione. Vista dall'Olaf, l'Italia com'è messa sul fronte corruzione? L'Italia ha anche ancora da dare seguito a due convenzioni del Consiglio d'Europa, peraltro, sulla corruzione. Ecco, ricordiamole quali sono. Sono la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione, sia quella dal punto di vista della materia penale, sia anche, che è molto importante, misure civili in campo della corruzione. Questo non dà, come dire, una buona immagine. Ecco. Che cosa cambierebbe con la ratifica di queste convenzioni? Sarebbe un paletto in più nella strada di avere un mercato pulito. Noi abbiamo bisogno, ancor più in tempi di crisi, di un'economia che sia trasparente, che sia pulita. Possiamo permetterci di avere norme che sono state scritte un secolo fa e sono del tutto inadeguate e nelle cui complicazioni poi si prolungano processi per decenni. Dall'altro lato verrebbe introdotta la previsione della corruzione in campo privato, vale a dire anche chi paga non un pubblico ufficiale ma impiegati di una compagnia commerciale per ottenere in debito profitto dovrebbe essere punito. Ecco, l'Europa ha mai chiesto, può pensare di in qualche modo di dare un monito all'Italia su questo fronte rispetto alla mancata ratifica di queste convenzioni? In giugno la Commissione Europea ha fatto due comunicazioni, una sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea, un'altra sulla lotta alla corruzione. Si chiederà agli Stati membri di portarsi tutti su un livello uniforme, il problema della prescrizione troppo breve. Per quanto riguarda i reati di nostra competenza dell'Olaf, l'avete fatto presente? Ancora in maniera formale questo verrà fatto. Cioè, quindi a breve darete qualche indicazione sui problemi relativi a questi reati, compreso il fatto che rispetto all'Italia c'è una prescrizione troppo breve per la corruzione. Quindi, peraltro, cioè, non è un problema solo italiano per quanto riguarda questi reati. Noi affronteremo il problema comunque con tutti i 27 paesi allo stesso modo e allo stesso tempo, con un rapporto anche proprio della Commissione. Ha sembianze, forme ed origini diverse dunque la corruzione e più di ogni altro reato, forse come un camaleonte, segue il cambiamento della società anche nel suo look, proprio come è successo a Gianpaolo Tarantini, emblema, secondo Nicola Lagioia, scrittore barese, di una borghesia settimina. Lui l'aveva già raccontata in Riportando tutto a casa. Una borghesia settimina, e c'è una borghesia che arriva all'improvviso alla ricchezza, non ha ancora avuto modo di elaborare una cultura del denaro, ma si ritrova improvvisamente ad avere, insomma, un sacco di soldi. Si tratta di una classe medio-alta che poi improvvisamente si ritrova nelle polveri e poi di nuovo sugli altari, per la quale appunto l'ostentazione è la cosa più importante. Io ricordo veramente di questi imprenditori che poi ho raccontato nel mio romanzo, ritrovatisi ricchi da un mese all'altro, poi acquistavano ville hollywoodiane, delle quali però per esempio poi non pagavano il mutuo e quando c'era un rovescio di fortuna rischiavano di perderli. Oppure davvero ho visto pellicce di visone comprate per i cani mosca. Tarantini è un po' l'evoluzione del malavitoso classico, perché la tuta acetata si è trasformata in un gessato, il dialetto si è trasformato in un italiano ben padroneggiato, la droga di riferimento non è più l'eroina ma la cocaina, che invece è una droga di integrazione, la ricerca di un Don Rodrigo è il più italiano dei travestimenti. Per ora ci fermiamo qui, ma vi ricordo che gli appuntamenti con A Ciascuno il Suo sono al sabato alle 8.30 e la domenica alle 20.30. Ci ritrovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sull'audioblog Storiacce. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.